Ora vorremmo presentarvi un brano che penso sia importante. Per favore, portiamo avanti questa cosa nel miglior modo possibile. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso. E penso che se ognuno di noi, se non altro così, a titolo di curiosità, volesse seguirlo, non so se farebbe, se perderebbe tempo, o forse potremmo incontrarci su questo discorso ogni tanto. Thank you. fedele madre fiere, avvolte dentro suoi fiori. E piange e ride la mia gente, e canta, allora è viva la mia gente, vive! Chiamato a sé gli eroi in paradiso vicino a lui, l'odore dell'incenso non si sente nella trincea, il mio vero eroismo qui comincia da questo fango. Ma come debole l'approccio che si incontra, sono vinto, cos'è che ho vinto quando io vedo che